baya magi la maga, di la sainteté di la gueule. Baya baya magi la maga, di la sainteté di la gueule. Na baya baya, sargal gama. Na baya baya. Sargangama Fumu jafenga yomba la mako Fumu metenga woya pamako Fumu disenga maima dole Fuma jumenga wama yoni Kombayo bayo Sargangama Bayo Sagangama Fumu japenga yomba la mako Fumu metenga woya pamako Fumu disenga maima dole Fuma jumenga wama yoni Kon bayo bayo Sargangama, bayo bayo, sargangama, bayo bayo di barke Yesu, yangi mai ate di matete, bayo bayo di barke Yesu, yangi mahel mai madore. Bayo bayo sargangama Kon bayo bayo sargangama Kon bayo bayo sargangama